Garibaldi fu ferito, ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da giugno a settembre del 1825. A Ravenna si scatena la repressione pontificia, 500 condanne per cospirazione. Il regno di Sardegna attacca la Libia a bombe dalla flotta su Tripoli. Alta tensione sul mercato britannico, si teme l'esplosione di una bolla speculativa. Arriva dal college di rugby la nuova versione del football, si gioca con le mani. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura la cronaca dallo Stato Pontificio, da Ravenna in particolare, dove il cardinal Rivarola, inviato da Leone XII, ha instaurato un regime di vero terrore. Chiusi gli alberghi, eliminata la libertà d'espressione, introdotta la carcerazione senza processo. Fuori dalla sua abitazione c'è una cassa di ferro nella quale si possono depositare denunce anonime. Repressione durissima, oltre 500 condanne in base a processi sommari per presunti cospiratori. E ora andiamo in Nord Africa, sotto attacco della flotta del Regno di Sardegna. Ci colleghiamo in diretta con Paolo Piacenza. Paolo. Buongiorno Simone, qui a Tripoli la missione del comandante Sivori per punire la tracotanza del Bey, il dittatore libico, si è conclusa con un grande successo. Stamani infatti Sivori viene ricevuto con tutti gli onori dal Bey, che ha già promesso di rispettare in futuro le vecchie regole. È bastata un'azione a sorpresa dopo il fallimento delle trattative appoggiate dal console inglese. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre 11 navigli d'assalto sono partiti dalla flotta sarda e hanno attaccato le navi alla fonda del porto di Tripoli, hanno distrutto diverse imbarcazioni e navi sono rientrati senza grossi danni. Il comandante Sivori voleva replicare bombardando la città, ma il console inglese Warrington ha portato subito la notizia che il Bey cedeva su tutta la linea. Una importante vittoria dunque anche per l'ammiraglio sardo De Geneis e per la sua politica navale nel Mediterraneo. E da Tripoli è tutto. È iniziata, e non solo tra i festeggiamenti, la visita dell'imperatore d'Austria Francesco I nel Lombardo Veneto. A Pavia gli studenti hanno dato vita ad una sommossa. La polizia è intervenuta duramente e due ragazzi sono rimasti uccisi negli scontri. Dopo il boom d'inizio d'anno c'è tensione sui mercati finanziari inglesi, legata tra l'altro alla speculazione sui terreni in Sud America e quella edilizia nella stessa Londra. Al momento non è chiaro quanto possa durare questo ribasso in borsa e quante banche possano ancora fallire dopo che anche quella di Henry Thornton ha dovuto dichiarare bancarotta. Restiamo in Inghilterra per parlare di sport. Ormai sono passati un paio d'anni da quel primo novembre 1823. Faceva freddo sul campo di calcio della Public School della cittadina di Rugby, nel Warwickshire. I ragazzi giocavano e se le davano di santa ragione, tra calcioni e risate, a inseguire quella palla rotonda. A un certo punto, però, quell'ammasso di cuoio e stracci rotolò ai piedi di un giovanotto che se ne stava in disparte. William Webb Ellis, il suo nome, 16 anni, orfano, originario di Manchester. Fu un attimo. William non ci pensò due volte e, tra lo stupore di tutti, quel pallone che andava calciato lo afferrò invece con le mani e corse all'impazzata così, palla stretta al petto, fino alla linea della marcatura. Tutti rimasero a bocca aperta, lì per lì. Ma l'idea poi piacque. Da allora quelli che giocano a rincorrersi con una palla rotonda sotto braccio sono sempre di più. Per chiamarlo sport, certo, ci vorrebbe un nome, anche se rugby, dal nome della città, non suona poi tanto male. E poi il pallone, così rotondo, scivola e rotola. In tanti già pensano di farlo ovale, prima o poi. Dario Ricci, Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog o la nostra pagina Facebook e lasciateci un commento, fatelo prendendo penna e calamaio elettronici, l'indirizzo come sempre gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.